lascia correre tutto quanto come non fosse stato vissuto. Che il tempo corre e cambia direzione. Che l'aria vissuta non avrà un Dio che la ossigena. Voglia di scorrere lontano ti prenda e ti porti ancora a casa tua, dove qualcuno ti aspetterà di sicuro e dove qualcuno avrà preparato un bicchiere di vino. E il tempo ti premierà.